corriente m'ha portato, no carezzerò passato, chiuderò l'occhio a danze rose, quando voglio avere a te. E poi mi faccio la finestra e mi perdo in dare un quadro. Prima era pigliandrasatta e correva innanzi a rete.